mi son dimenticato di me, di quello che sono. Forse nel tempo che fu ero stato un grande uomo. Ho lacerato il cuore e ho distrutto la coscienza. È finita questa storia, ma non so dire pazienza. Ho un pensiero fisso, una colpa, un errore. Solitudine bastarda della quale ho terrore. Ho annientato me stesso nel nome dell'amore. Per sentirti accanto, per sentirne il calore. Ma tu come mi hai ringraziato con il ben servito. Dopo quello che ho fatto, come sono finito. Devo trovare la forza, devo trovare il coraggio. Ho seguito la stronza invece che il saggio. E forse è vero che amare è una continua lotta. Non confondiamo però l'amore con la cotta. Io non so bene cosa fossi per te, ma mi chiedo, dammi un motivo, la risposta che ora non vedo. Io ho sempre dato tanto, ho lavorato duro, che fosse stato amore, io ne ero sicuro, ho accettato cose che altri non avrebbero ammesso e l'ho fatto perché sono stato un fesso, ci ho sperato nel fatto che mi dessi una mano, mi è spremuto fino all'osso, piano piano, e non è giusto fare a colpe chi è cresciuto e sbagliato, a chi vive negli sbagli e disfa ciò che ha creato, a chi cresce dei figli nell'ignoranza e nel disagio, a chi non accetta consigli perché lo crede un plagio, forse le colpe me le devo fare da solo. Tu eri un uccello pronto a dire il tuo volo. Verso dove? Verso chi? Volo senza una meta. Mi hai tenuto per un po' di tempo sul tuo pianeta. E non lo so che cosa hai in mente, cosa chiedi al futuro. Con te ho perso tanto e mi hai reso insicuro. Io ho dimenticato me. Ho lasciato il cuore per cercarti. Ora con totale indifferenza che la storia è finita e che di me puoi star senza. Mi accusi di essere un uomo a metà, ma sei tu la perdente in tutta onestà. Mi hai cacciato di casa, schermata dietro i tuoi figli. Finirà tutto questo, allora cosa ti appigli? Sono tornato dai miei, ormai privo d'orgoglio. Sarò stupido, lo so, ma ancora bene ti voglio. Io non cancello nulla di tutto quello che è stato. Cucirò le ferite che mi sono creato. Ho imparato la lezione, soffrendo poco a poco. Sembrava quasi che per te fosse tutto un gioco. Ora vai per la tua strada, ora cerca la via. Io farò lo stesso e cercherò la mia. Non so se dirti auguri o vaffanculo e basta. Sappi che cancellarti sarà la mia battaglia piuttosto. Io